dovrei mettere qualcosa di un vede, questo potrebbe essere una buona cosa, ma affidiamoci al nostro psicoterapeuta, uno psicoterapeuta per amico, Alberto. Allora, Ilaria intanto bravissima, perché proprio sentire la cavalcata delle valchirie prima di andare a discutere con un papà che ti fa piangere in automatico è già un buon metodo per cambiare proprio il tono emotivo con cui si entra nella conversazione. Il suo problema è che lei è entrata in un copione e l'ha lasciato fisso in tutti questi 20 anni, per cui il suo papà per lei recita un ruolo e lei recita il ruolo di della debole che per farsi sentire deve piangere, per cui bisogna cambiare il copione. Prova a immaginare, cambiare papà non si può, no. Il lavoro sarebbe profondo, probabilmente c'è dentro qualcosa nella sua storia di vita col papà che la tiene in quella posizione, però provi proprio la prossima volta che va dal suo papà a fare due cose: ascolti la cavalcata delle valchirie, immagini il suo papà che mentre lei le parla, invece di essere quell'uomo grande e potente che magari la spaventa, non so, un papà intento a fare le parole crociate, a giocare con un giocattolo, oppure un papà con un bambolotto in braccio e lei parli a quel papà lì, lo veda proprio con altri occhi. Ilaria, ci faccia sapere. Intanto noi andiamo a sentire che cosa ha da raccontarci Enrico dalla provincia di Venezia. Buongiorno Enrico. Ah, buongiorno, buongiorno. Tanto complimenti per il pezzo di Ren che avete messo. Vede. La prima volta che l'ho sentito sono scoppiato. Niente, volevo chiedere una cosa. Io sto vivendo una situazione spiacevole, una separazione in corso, e ho un bambino di quasi 9 anni e mezzo. Mm. E mi è successo qualche volta, siccome sono già fuori casa da 2 mesi, quando sto con lui, mi è successo qualche volta mi è scappato qualche lacrima. Però vedo che la sua reazione è negativa, cioè lui si spaventa quando vede il papà che piange. Allora voglio sapere se, e da allora mi sono trattenuto, non mi sono ovviamente, voglio sapere se è corretto non farmi vedere piangere, o invece, se è possibile, con i 9 anni, spiegargli o insegnargli che papà può anche piangere. Certo. Beh, perché veder piangere un adulto, veder piangere un uomo soprattutto, e se poi questo uomo è tuo papà, fa effetto anche da adulti, e immagino che faccia effetto ancora più da bambini. Alberto, è giusto trattenere le lacrime di fronte ad un bambino in una situazione come quella che ci racconta Enrico? Beh, Enrico in realtà parla di una situazione molto particolare, la separazione che i bambini subiscono e quindi hanno bisogno, proprio perché anche loro sono travolti e sono in balia di emozioni molto forte, di avere due genitori che in realtà si presentano come dei porti sicuri. Ed ecco perciò che il bambino, probabilmente in questa fase disorientato per la fresca separazione di mamma e papà, rimane colpito dalle lacrime di papà, perché un papà che piange non può essere un porto sicuro, ma diventa un porto che va rassicurato. Allora, la cosa fondamentale prima di far vedere le nostre lacrime è dare modo al bambino di poter far vedere le sue, in modo che questo disagio che un bambino ha dentro di fronte a una separazione sia condivisibile. Dopodiché è possibile far vedere anche le nostre lacrime di adulti, però accompagnarle da parole. Esatto. Andiamo ad Alessandra, ci chiama da Bari. Buongiorno. Buongiorno. Io il mio problema è proprio l'opposto, io non riesco a trattenere le lacrime, quindi piango spesso e volentieri. Ad esempio, proprio ieri il mio compagno mi ha lasciata. Alessandra, lo credo, uno si scioglie le lacrime quando finisce un amore. Anche il professor Rolando si dovrebbero inventare, no, dei trattieni lacrime in questo momento, no? In questi casi, professore, non li hanno ancora inventate, perché abbiamo detto che le lacrime piacciono ai nostri occhi, piacciono un po' meno al nostro cuore quando un amore finisce, cantava Cocciante. Non si possono non piangere lacrime, è proprio una fase di separazione, un po' come l'elaborazione del lutto, cioè noi dobbiamo staccarci da una persona che abbiamo molto amato e le lacrime devono accompagnare questa fase, perché è quella che ci tiene in contatto col dolore profondo che stiamo sperimentando. Allora, intanto saluto e ringrazio il professor Rolando, il professor Alberto Pellai che è venuto a trovarci, e a chiusura di una puntata sulle lacrime, che dire? Non ci resta che piangere. Allora vi lascio con un estratto del film di Troisi e Benigni, augurandovi lacrime di divertimento e di gioia, e dandovi appuntamento naturalmente a domani. Ma voi vestite così, senza giacca, senza cappello, siete un artista? Digli, no. Se c'è un'amica. No, sono... sì, un artista, sì. Cioè, se no mi metti con la giacca e il cappello, no?